però sto toccando. Non è la stessa comunicazione, ma dai, un po' bello. Il gruppo per chiudere tardi. Ci fai la foto? Fallo interno, la manda riesce, si gira. No, raga, me lo date di prima. È un if un po' lungo, però Gracias.